il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Torniamo a parlare di PFAS, di cosa sono, di cosa è successo e di cosa ancora sta succedendo nella zona della Valle del Lagno, a ovest di Vicenza e poi giù fino al mare. Nei 10 mesi passati dall'ultima trasmissione che avevamo dedicato a questo argomento, la situazione si è andata evolvendo e sono stati raccolti nuovi dati, purtroppo non sempre positivi. Torniamo a fare il punto con Marina Lecis, consulente ambientale e consulente tecnico d'ufficio del Tribunale di Padova su queste tematiche ambientali e consulente dell'Associazione Terra dei PFAS, un'associazione nata per tutelare la salute dei cittadini dei territori contaminati. Benvenuta Marina. Grazie e saluti a tutti, ecco, gli ascoltatori. Grazie a te per questo nuovo appuntamento. Vorremmo chiederti intanto prima di andare avanti, di ripercorrere un po' la vicenda, partendo da cosa sono queste sostanze perfluoroalchiliche, che leggo sul sito dell'USL. Tossiche e persistenti nell'ambiente, bioaccumulabili negli organismi viventi e interferenti con gli ormoni, nonché anche neurotossiche. Quindi, detto questo, sono tanti paroloni e in pratica dal bioaccumularsi si capisce anche la pericolosità, per cui basta pochissima quantità bevuta anche tutti i giorni o anche non tutti i giorni, insomma, con costanza, certo, per avere poi delle concentrazioni nel sangue e poi vedremo anche negli organi vitali importanti, tali da causare delle tipologie pesanti di malattie, per cui è stato visto anche un nesso di causa-effetto. Ne posso tranquillamente parlare, anche se non sono un medico, perché riporto lavori ufficiali a livello di scienza internazionale, quindi della medicina internazionale, e se vi ricordate se ne occupò la DuPont, per cui ci fu un caso gemello negli Stati Uniti, e peraltro anche concluso, la DuPont è stata costretta a pagare, infatti, tutti i cittadini, circa una popolazione di 72.000 persone, che gravitavano nell'area inquinata da PFAS e quindi quotidianamente bevevano quest'acqua potabile. Qui stiamo parlando di una popolazione più ampia, però prima di arrivare a questo, da noi, sì, volevo vedere un attimo, perché leggevo sul sito dell'USL 17 di Este che cosa dicevano che questi PFAS sono sostanze chimiche di sintesi utilizzate principalmente per rendere resistenti ai grassi e all'acqua vari materiali, esatto, tessuti, tappeti, rivestimenti per alimenti, contenitori per alimenti, eccetera. Ecco, e quindi c'è una fabbrica o comunque delle industrie che hanno lavorato su queste questi materiali. Ecco, vorrei che si trovano... precisare per non creare un po' di confusione come è stata creata in queste ultime 3 settimane, che il focal point, cioè la sorgente della contaminazione, è già stata individuata nel 2013, poi vi dirò anche un po' prima. Comunque da ARPAV, quindi la fonte ufficiale è ARPAV 2013, che attraverso dei monitoraggi che ha dovuto fare su incarico del Ministero dell'Ambiente, su dati ovviamente allarmanti ritrovati già dal 2006 al 2011, quindi parliamo di studi molto antecedenti al famoso anno 2013 che fu il giro di boa. E diciamolo di nuovo perché si crea sempre molta confusione e soprattutto la Miteni poi continua a scaricare le colpe ai depuratori o ad altre industrie. Chi produce i PFAS è solo la Miteni di Trissino, quindi è un'industria chimica specializzata per questo e li produce da oltre 40 anni, quindi vuol dire che c'erano anche prima, solo che non venivano analizzati nella falda e nelle acque superficiali. Ecco, la situazione ad oggi qual è? Allora, ad oggi siamo venuti a sapere, questo l'ho saputo io a novembre 2016, quindi noi è un po' che non ci sentiamo, che sotto la Miteni ci sono 245 milioni di nanogrammi litro e quindi possiamo chiamarlo focal point, come lo chiama ARPAV, e possiamo anche dire che la Miteni continua a produrre queste sostanze perfluoroalchiliche anche se ha dovuto interrompere la produzione dei catena lunga PFO e PFOS, ma che troviamo ancora nelle acque per il semplice motivo che sotto di lei ci sono milioni di nanogrammi litro. E sono sostanze che lì dalla falda ci vorranno almeno 100 anni, perché supponiamo che chiudiamo i rubinetti oggi della Miteni, ci saranno altri 100 anni almeno per le generazioni future di queste sostanze tossiche, che continueranno ad essere presenti in tutte le acque. Ecco, sostanze tossiche che abbiamo, sì, che abbiamo detto che possono causare dei problemi, leggevo, di incrementi di cardiopatie, di diabete. Proprio per l'assunzione continua. Il diabete mellito 1 si è notato un grandissimo aumento, ma questo è un lavoro della regione che era stato tenuto nascosto nei cassetti ed era stato firmato da Mantoani, il presidente della commissione scientifica PFAS della regione Veneto, e è stato dato alla terra dei FAS all'avvocato Giorgio Destro, che appunto è il consulente legale dell'associazione e che ne ha denunciato il caso a gennaio 2017 corrente, e dove appunto la regione è preoccupata, lo scrive, per nuove malattie che insorgono soprattutto le gestanti e le donne incinta, e anche queste concentrazioni molto alte nella popolazione. Vi posso dire che nella media di questo monitoraggio che ha fatto sia l'Istituto Superiore della Sanità e anche la regione, è stata trovata una concentrazione media di 70 nanogrammi su grammo, parlo del siero del sangue, di PFOA, che sono tantissimi, quando il limite di queste sostanze nel sangue è circa di 2 nanogrammi su grammo. Quindi vedete già che l'area rossa interessata è molto, la concentrazione è molto alta, e pertanto la popolazione ovviamente giustamente è preoccupata di questi dati. Bene, torniamo tra poco a parlare di come, di quello che si sta facendo, di cosa sta facendo la, la regione per risolvere questa situazione, se speriamo sì, si può risolvere. A tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. You when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Turn evil to good, even when we try so hard. For that perfect kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Last make the most of it. tonight. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di PFAS, ovvero di quelle sostanze che stanno inquinando tutta un'area, un'enorme area ad ovest di Vicenza. Ne stiamo parlando con Marina Lecis, consulente ambientale e consulente tecnico d'ufficio del Tribunale di Padova. Abbiamo visto un po' che cosa sono queste sostanze, qual è la loro pericolosità. Vorremmo capire adesso quali misure sono state messe in atto. Abbiamo letto varie cose, varie anche proposte, varie idee. La Regione in particolar modo che cosa sta facendo? Allora, la Regione dovrebbe fare molto più ricerca, a detta dell'Associazione La Terra dei FAS. Vi porto un esempio: che il CNR di Bari sta lavorando proprio sui PFAS, cioè sta cercando di capire come riuscire a neutralizzare queste sostanze. Che sono, lo ripeto, solventi eccellenti in tutte le sostanze liquide, quindi figuriamoci nell'acqua, e che per ora, a parte i filtri a carbone, che nel frattempo si sono ovviamente un po' evoluti rispetto all'inizio, alla partenza del 2013, quindi hanno studiato, ma soprattutto i gestori delle acque, quindi come Acque Veronesi, Acque Vicentine, CVS, stanno facendo ricerca per migliorare e potenziare la qualità di questi filtri per raccogliere queste sostanze. Cosa rimane fuori? Rimangono in catena corta, che si è visto che difficilmente vengono attratti da questi filtri a carbone attivo. La Regione avrebbe dovuto far partire una ricerca a tappeto molto più impegnativa, chiamando anche a sé luminari della scienza a livello mondiale. Perché per noi, lo ricordo, questo è un disastro ambientale su scala europea che ha superato i 180 km quadrati di superficie. Più pozzi sono stati chiusi nell'area rossa, e quando si chiudono i pozzi dell'acqua potabile vuol dire che il disastro ambientale è in atto. Voi avete chiesto la chiusura, anzi il sequestro dello stabilimento della Miteni? Allora, l'associazione della Terra dei FAS, certo, voi intendevo quello. Ha chiesto la chiusura della Miteni in maniera cautelativa, fin tanto che non si risolve questo problema, e questo è stato fatto recentemente. E poi vi posso anticipare, però questa sarebbe una cosa che dovrebbe dire l'avvocato Giorgio Destro, perché non l'ho seguita io, ed è un'attività nuovissima dell'Associazione La Terra dei FAS, dove c'è questa richiesta di danni, che sono circa 500.000 euro, se non voglio sbagliare, alla Miteni, proprio per tutelare i cittadini dell'associazione. Ecco, ma la produzione, mi pare di aver capito, che continua. Quello che volevamo un po' capire è: il problema adesso è sul passato o anche su quello che sta in questo momento avvenendo? Allora, si può dire che la Miteni, o oggi Miteni, prima Mitsubishi e prima ex Rimar Ricerche Marzotto, ha sempre prodotto queste sostanze che si sono poi disperse appunto sotto di lei e hanno inquinato le falde, ma c'è stato un inquinamento con continuità. Quindi non c'è stata un'interruzione di produzione, l'azienda ha sempre prodotto, e tuttora oggi si trovano ancora i PFAS nelle acque. Chiaramente i gestori delle acque potabili riescono con questi filtri ad arrivare al valore obiettivo indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, quando, lo ricordiamo, noi un anno fa abbiamo chiesto invece un valore di concentrazione prossimo allo zero, perché la popolazione ha già bioaccumulato nell'area rossa queste sostanze negli anni, prima del 2013, e riteniamo che, non solo noi ma il nostro gruppo di lavoro con psicologi e medici, riteniamo che anche piccoli bioaccumuli aggiuntivi nuociano alla salute. L'acqua, comunque, degli acquedotti è potabile, il problema riguarda le acque dei pozzi e anche eventualmente attività tipo agricoltura che viene svolta nel territorio. Tutta l'area agricola, soprattutto di pozzi non dichiarati, perché sapete che nel Veneto, ma non solo in Veneto, molti agricoltori privati si sono fatti il pozzo e a suo tempo, anni fa, non lo hanno denunciato. Che cosa comporta questo? Comporta che la regione, se si accorge o se loro si autodenunciano, deve dare una multa, una cospicua multa. Allora sarebbe importante che la regione intervenisse togliendo questa clausola, visto che ci troviamo in un momento di crisi e di disastro ambientale in corso. Sì, all'interno di un'emergenza. Ci dobbiamo fermare qui, noi continueremo a seguire questo argomento, speriamo, se ci risentiamo tra qualche mese, di avere notizie positive, magari sentiremo anche direttamente la Regione Veneto. Voglio ringraziare Marina Lecis, appunto consulente ambientale, per la disponibilità, e speriamo appunto di avere notizie positive. E ringrazio voi per l'attenzione e buon lavoro, e auguriamoci che si vada avanti sia con la ricerca e con la risoluzione di questo grave problema. Saluti a tutti. Grazie. Abbiamo tempo ancora per una breve notizia. Nelle campagne di Bercantino, in provincia di Rovigo, è stato ritrovato un alveare della temutissima vespa velutina, nota anche come calabrone a zampe gialle. Si tratta di una vespa originaria dell'Asia sud-orientale, comparsa in Europa verso il 2004 in Francia e poi diffusasi in pochi anni nei paesi vicini. In Francia si calcola che a causa di questa vespa siano state perdite di alveari fino al 50%. Il calabrone asiatico è infatti un cacciatore di api che cattura per nutrire le larve presenti nei propri alveari. A differenza dell'ape asiatica, quella europea non ha le capacità per difendersi. Per evitare la preoccupante diffusione di questo insetto, pericoloso anche per l'uomo, la Regione Veneto distribuirà entro breve tempo un massiccio numero di trappole in tutto il territorio regionale. Con questa notizia, anche questa purtroppo negativa, chiudiamo questa puntata. Vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.